di Beppe Grillo o il collaboratore di Beppe Grillo, come lo volete. La cosa più interessante però sul Movimento 5 Stelle è un retroscena con alcuni virgolettati di Erika Della Casa sul Corriere della Sera, come l'avrebbe presa questa vicenda Beppe Grillo. Beppe Grillo che si rilassa al mare, attenzione perché si sta preparando Beppe Grillo con un allenamento quotidiano a nuoto per nuotare e attraversare lo stretto di Messina a nuoto per il lancio della sua campagna elettorale in regione. Per ora la sua tenuta in mare è sui 2 chilometri, ma il problema sono le correnti ovviamente marine. Così si sta preparando Beppe Grillo al mare e avrebbe commentato così la vicenda Favia: nel movimento abbiamo questi 2 o 3 ragazzi che hanno fatto 2 mandati e non si possono più ripresentare, così sono entrati nel panico. E si è messo le mani al collo Beppe Grillo per simulare lo strozzamento. Li capisco, per carità, si sentono soffocare, erano disoccupati e per un po' di anni si sono trovati a prendere uno stipendio da 3.000 euro al mese a gestire un po' di potere. Adesso si sentono l'acqua alla gola perché devono lasciare. Così vanno in televisione, straparlano di democrazia. Il grano, cioè i soldi, e il poterino purtroppo sono un problema. Liberissimi di andarsene, se ne andranno in un partito, nel PD, nell'IDV, non so dove, scelta loro. Sono un dittatore per questo? Questi sono i ragionamenti che Beppe Grillo fa al mare sfogandosi sui suoi, secondo il Corriere della Sera. E poi ancora, sono un dittatore? Beh, un po' di vaglio ci vuole per chi chiede di usare il simbolo. Se arriva Totò Ucurtu e dice che vuol fare il sindaco, gli dobbiamo dire sì e basta? Se no sono io un dittatore? Allora sì, sono un dittatore, non sono un leader, non sono un segretario di partito, ma sono un garante del rispetto delle regole. Così Beppe Grillo sul Corriere. C'è poi, se volete, secondo me ormai siamo a livello di impazzimento generale, il fatto che, e chiudo con questo, un paese, ormai ci sono 5 pagine al giorno su Antonio Ingroia, cioè un magistrato, qualunque cosa faccia, ma il paese si dibatte, si divide sulla figura di un magistrato. In particolar modo Antonio Ingroia. Anche oggi la NM tuona contro di lui, lo ha richiamato, fa interviste troppo politiche, basta, ha invitato a cambiare la classe dirigente. Lui risponde oggi con un'intervista sulla Stampa, un'intervista su Repubblica, il Fatto Quotidiano che lo difende, la NM attacca i magistrati, insomma questo è il livello. Si discute tutti i giorni se Antonio Ingroia debba essere difeso oppure attaccato. Ecco, già questo per me è il segno di un paese alla deriva. Comunque il giornale radio, e poi ripartiamo con Matteo Renzi alle 8:15.